Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, siamo a fine gennaio e come tradizione è tempo di dare i numeri, senza ironia per una volta, lo facciamo con Daniele Menarini, con direttore del mensile Correre, bentornato. Grazie, è l'ultimo delle Befane. Daniele, i numeri sono quelli che emergono dalla bella e approfondita analisi che annualmente fate per l'inserto Maxi Maratona, che sarà allegato al numero di febbraio della vostra rivista Correre. Annualmente infatti analizzate gli andamenti del fenomeno maratona in Italia e non solo. Quest'anno cosa dicono i numeri? Andiamo subito al sodo. Dicono che anche quest'anno come l'anno scorso siamo andati un po' malino, anzi siamo andati peggio dell'anno scorso, sì. Siamo al livello di 36.700, esattamente 36.725. 36.000 persone che sono arrivate al traguardo di una maratona almeno in di Italia. Una. Almeno di una. In totale hanno fatto 57.000 risultati, cioè le righe, quei tempi sono 57.000. Quindi diciamo una maratona e mezza a testa. Più o meno. Sono abbastanza saggi, quasi tutti. C'è qualcuno che ne ha fatte tantissime. Ma in calo rispetto a? In calo rispetto all'anno scorso, quando erano 37.800, ma soprattutto rispetto a due anni fa, 2017, quando è stato toccato il record proprio di tutti i tempi, almeno dal 1985 viene fatto questo lavoro, che era 39.460. Eravamo lì. Quindi per dire finalmente 40.000. Facciamo in un anno quello che fa Parigi da sola, no? Però invece gli ultimi due anni sono stati di calo. Secondo te perché? Soprattutto per distrazione, nel senso che poi il mondo del running si è allargato in Italia e offre anche cose molto alternative. Molti sono andati verso il trail running e molti si stanno innamorando, li capisco, dell'Ironman. Quindi il triathlon porta via un po' di... Infatti noi pensiamo adesso di non l'abbiamo ancora fatto, ma di conteggiare l'anno prossimo anche la frazione maratona dell'Ironman, perché in effetti quella è una maratona in tutti i sensi. Certo, sì. Quindi diciamo chi si è già evoluto come maratoneta a un certo punto decide, non mi basta più la maratona, passo all'Ironman. Sì, cioè all'Ironman oppure all'ultramaratona, ultra trail, che invece sono in aumento. Che stanno facendo dei bei numeri, infatti. Sì, l'anno scorso il passatore, di cui so che qualcuno ha messo in calendario. Credo di aver capito che forse entrambi siete interessati. Ma io un po' meno, però sono... Ma invece la notizia che serpeggia, dico bene Ivana? Sì, assolutamente, che Silvio verrà con me. Bene, l'anno scorso hanno fatto a loro volta il record assoluto, loro vivono da più di 40 anni, sono partiti nel 73, parliamo della 100 km del passatore, la mitica Firenze-Faenza, ha fatto più di 3.000 iscritti e 2.900 arrivati, che sono tantissimi per una gara così difficile, così importante. È un andamento generalizzato questo del calo sulla maratona anche nel resto del mondo, nel resto dell'Europa? No, assolutamente, anzi un'altra controtendenza che non ho fatto in tempo a portarvi come appunti è la presenza degli italiani alle maratone estere, che invece sta aumentando grazie in particolare ad alcuni fenomeni. New York è tornato ai fasti del prima dell'edizione mancata, 2850 italiani a New York, ma più di 2000 a Valencia, che è l'altra New York, l'emergente. Sì. E questo un po' più abbordabile anche perché in Europa, insomma, sì, molto più bravo, è una New York dal volto umano. Sì. Ma anche vivendola da dentro, ho avuto la fortuna di viverla quest'anno, se siete abituati, siete stati alla maratona di New York, è tutto più facile, anche per noi che dobbiamo lavorarci. È molto molto friendly, per usare un termine invece da New York. Sì, perché secondo me adesso è più facile anche abbinare i viaggi con la maratona e quindi magari se c'è da scegliere, ma cosa faccio? Vado a Firenze o vado, non so, ad un'altra parte, appunto a Valencia, così all'estero? Vanno a Valencia, così abbinano anche il viaggio. È proprio così. Mi ricordo che l'anno scorso parlavamo di run and trolley. Run and trolley sta andando veramente al massimo. Sì, la scusa della maratona per farsi un viaggetto, insomma, proprio alla così. Fine. E c'è un calo delle prestazioni, poi, no? Anche sì. Nel senso, una volta parlavamo che lo scorso anno si correva molto più forte mediamente, adesso chi che si approccia alla maratona ha una velocità media più bassa. È così, Silvio. A complemento di questa maxi classifica ci sono le graduatorie, sia quelle italiane sia quelle mondiali. Gli uomini vanno nei primi 100, noi pubblichiamo i primi 100 con 2.40. Fino a qualche anno fa era impensabile per uno a quale va tutta la mia ammirazione, che fa 2.40, entrare nei primi 100 italiani. Adesso invece è così, e questo ti dà l'idea, insomma, di quanto più piano si vada qui. Anche per le donne è la stessa cosa? Un po' meno. Un po' meno. Diciamo che la centesima quest'anno fa 3.20 circa. In proporzione è meno evidente il fenomeno. Stanno venendo fuori molte atlete brave di livello amatoriale che vanno abbastanza vicino alle tre ore. Su questo le donne ci danno delle risposte. E poi ecco, anche perché si diceva prima, a calare in realtà sono gli uomini, le donne aumentano. Infatti questa è una domanda importante. Sì. Vi do due numeri di quelli un po' antipatici. Sì. Gli uomini sono 29.810, l'anno scorso erano 31.002, ecco. Le donne quest'anno sono 6.915, erano 6.872, poco ma aumentano. Ed è tanti anni che aumentano le donne. C'è un caso a livello mondiale in cui le donne superano gli uomini? Mi ricordo una Chicago di 2018. Sì, no? Chicago fu un esempio mostruoso. Di solito San Diego, che è un'altra delle maratone del circuito rock and roll, fin da quasi all'inizio ha avuto una partecipazione paritetica uomini e donne. E anche in Giappone, a parte Nagoya, che sì, sono donne, sono questi donne. Numeri spaventosi, non so come facciano a fare arrivare così tante assolutamente, donne. Assolutamente, quasi 18.000 anche quest'anno. C'è stata la nostra Sara Dossena, che era 2024, meravigliata. Infatti. Bravo, che era meravigliata a sua volta. E però nelle maratone del Giappone questo par condicio di numeri c'è spesso. E in Giappone sappiamo che hanno anche una cultura per il running molto forte, no? Se negli ultimi anni si stanno, addirittura l'altro giorno ho visto un record sulla maratona femminile di donne non africane, cioè esclusa l'Africa, diciamo. Sono le prime, le non africane giapponesi. E l'altra cosa che è incredibile, ecco, vedi, loro riescono a essere tanti ma andare anche tanto forte. Ogni tanto arrivano queste classifiche pazzesche, pazzesche, no? di alcune singole gare dove in un tempo, non so, una mezza maratona in 1:06, da noi conti i ragazzi in una decina, credo. Lì ce ne arrivano tante, centinaia, è una roba impressionante. Ma non perché ci sono tanti esteri, tipo appunto atleti africani forti, sì, quelli ci sono, ma finita la classifica da premio non ce n'è più. Sì, sono proprio loro ad essere così tanti e ad andare così forte. C'è qualche altro paese al mondo che si affaccia al mondo del running, della maratona? In questo modo così importante, no, un pochino la Cina adesso sta venendo fuori, perché ha poi grandi maratone, grande sviluppo, quindi per loro è tutto nuovo ed grandi numeri poi sono. Sì, è molto facile. Però non vengo, io non vedo tanti giapponesi in Italia. In giro no, ma nelle loro maratone sì. Perché se penso, non so, anche appunto l'ultimo che ho fatto a Firenze, non mi sembra neanche di averne incrociato uno. E questo andrebbe messo come nota, non dico di biasimo, ma come appunto per il futuro, per i nostri organizzatori. Cercare di lavorare sull'estero. Sì, perché credo di aver capito che già adesso rappresentino la principale nazione a livello turismo come viaggiatori, per forza di cose. Perché adesso stanno meglio anche a livello economico, quindi viaggiano parecchio. E il fatto che non siano così presenti nelle maratone italiane, secondo me, è come dire un motivo di riflessione. Cioè non riesco a capire questa cosa. Perché, però, ad esempio, abbiamo delle città meravigliose. Infatti, ma tipo nella maratona di Parigi hai tanti cinesi. È probabile che adesso si va su grandi cose che non riguardano noi. Sì, però sono curioso. I Pechino-Parigi a livello di aerei sono molto di più dei Pechino-Roma. Si va proprio ai problemi di struttura, sui quali ogni tanto qualche ministro fa delle dichiarazioni. E qualche problema l'abbiamo superato, no? Perché da quest'anno finalmente non c'è più l'obbligo del certificato medico agonistico per gli stranieri, che prima era un po' un ostacolo, no? Perché veniva da fuori, riuscire è magari vero. Il venerdì a organizzarsi per fare la visita medica, fare anche la run card, esatto. E poi poter correre una maratona. Quest'anno non c'è più. Adesso rimane la run card, ma c'è il vantaggio di potersi far fare un certificato dal proprio medico, dal medico del proprio paese, con le caratteristiche che sono richieste, quindi l'elettrocardiogramma e le altre cose. È un regolamento per adesso che abbiamo visto proprio, forse una delle prime cose che sono successe nel 2020, sta per diventare legge poi, quando non lo sarà, con la mozione Lupi. Maratoneta. Che è un maratoneta, insomma, alla fine è una sensibilità per quello. Tra l'altro viene da Baggio, se non vado errato. Lo vediamo ancora da Milano ogni tanto. Tornando sulle maratone italiane, invece, avete stilato anche una classifica delle maratone più partecipate, con il maggior numero di arrivati, no? Sì, è sempre Roma davanti, ma con margine più risicato rispetto a Firenze, che è la seconda. Roma ha fatto 8.820, Firenze, che a sua volta è in calo, ha fatto 7.455. Vorrei precisare che, almeno nella mia opinione, chi ha fatto la maratona di Roma nel 2019 come organizzatore ha fatto un miracolo, perché sono partiti molto tardi, quando si è capito che il bando per definire l'organizzatore a livello proprio di bando pubblico non ce l'avrebbe fatta per l'edizione 2019, allora è stato spostato a 2020. A quel punto la Federazione di Atletica ha dato mandato al presidente regionale, che è il colonnello Martelli, che credo che sia partito tipo a quest'ora, oggi dell'anno scorso, per riuscire a mettere in piedi. Per cui tanto di cappello che è riuscito in tre mesi praticamente, perché l'anno scorso era concomitante con Milano il 7 aprile, a mettere comunque in piedi una maratona dignitosa. Invece quest'anno sono in due giorni separati, quindi sì, diversi, finalmente, quindi lasciateci dire finalmente, ci godremo sia a Roma che Milano, che sono due bellissime maratone. Roma sarà il 29 marzo, mentre Milano il 5 aprile. Scorrendo un po' la classifica, abbiamo visto quindi Roma, Firenze, Milano, poi c'è Venezia. Sì, Milano tra l'altro è una delle due in crescita tra le grandi maratone. Noi abbiamo quattro grandi maratone, no? Abbiamo Roma, Firenze, Milano e Venezia. Milano è stata quella più brava a crescere, certo, è cresciuta molto, oltre i 6.000. Quest'anno sarà la 20ª edizione, tra l'altro. E sono partiti secondo me bene, devo dire. E si inserisce in questa classifica, forse si inserirà nel prossimo anno, la maratona di Bologna, che torna il 1 marzo, no? Pare di sì, nel senso che i numeri che hanno per il momento, infatti, sono numeri di iscritti, mm-hmm, sì, sì, sì. Però sono numeri molto importanti, sì, perché si è parlato, ho visto un'ultima notizia, 3.700 iscritti proprio tra maratona e 30, poi si tratta di vedere. È una piazza che ha il vantaggio di essere facilmente raggiungibile, mm-hmm, forse è la città d'Italia dove da più lontano si può partire la mattina, metti uno a guidare, gli a dormire, parti anche da Pescara, è vero, e arrivi a fare, perché ha un, come tutti dire, passano da Bologna, sì, diciamo, è un nodo stradale importante, quindi facilita gli arrivi. Anni e anni fa, perché è quasi 16 anni che manca la maratona di Bologna, era stata una delle prime a raggiungere quota 3.000 arrivati, quando Roma ne faceva ancora 2.000, per dire, ecco. E le maratone erano quelle che ogni tanto qualche vecchio maratoneta vi racconta. Non voglio dare del vecchio al fratello di Ivana, però se parliamo con Stefano si ricorda di Cesano Boscone. La ricordo anche io, Cesano Boscone, la feci. Diciamo nella maratona italiana, ai tempi di Cesano Boscone, grande maratona, Bologna fu la prima a salire abbastanza, proprio perché sfruttava bene questo vantaggio di essere facilmente raggiungibile. E poi scorrendo la classifica, quindi al quarto posto Venezia, poi c'è Reggio Emilia al quinto, Ravenna, che è stato campionato italiano, sì, quest'anno, tra l'altro. Sì, che aiuta tanto. Di solito chi ha il campionato italiano, soprattutto Master, questa è una cosa che a me sinceramente conforta. C'è molto attaccamento a questo campionato italiano, ecco, anche da parte di chi non lo può vincere, perché mediamente, ho visto anche con Treviso la stagione precedente, sposta tra le 300 e le 400 persone, cioè amatori appassionati che ovunque sia il campionato decidono che quella è una delle loro maratone dell'anno. Quale sarà questa di quelle 2020? Reggio Emilia. Reggio Emilia, vero. Reggio Emilia, che festeggerà la sua 25esima edizione, e sarà di solito nella seconda dicembre, domenica. No? Scusate, se leggo. Una volta c'era uno bravo e diceva: scusate se leggo. Reggio Emilia, 13 dicembre, sarà la 25esima edizione e avrà il campionato italiano, credo assoluto, e Master, tutti e due. E quindi anche quella si preannuncia come una gran bella edizione. Sì, la settimana dopo mi sembra Valencia. Sempre quella di Reggio Emilia, sempre. Un altro evento importante, mi viene da dire, di quest'anno non è in Italia, ma è la maratona di Londra. No, la tanto attesa sfida, adesso, mentre ne stiamo parlando, sfida tra Silvio, la faccia di quello che ha già iscritto, ce l'ha ma fatta. Sì, ma lui non dice niente, no, così è difficilissimo trovare il pettorale per Londra. No, lì bisogna la lotteria, no? C'è stato quest'anno, infatti, il boom, tra l'altro, quasi mezzo milione di richieste per la lotteria, quindi questo significa che all'estero è molto sentito la questione della maratona, insomma. Anche perché Londra ha cominciato a fare tanto tempo prima di Milano le charity, che sono poi quelle che governano la partecipazione, e quindi questo è il risultato, un gran bel risultato. Quindi dicevamo, lì ci sarà una sfida veramente importante tra due, insomma, numero uno, quindi Eliud Kipchoge, che è il detentore del record del mondo sulla maratona, e chi è subito dietro i due secondi è Kenenisa Bekele, che è detentore dei 10.000, dei 5.000 in pista. Io penso che ognuno di noi abbia pensato dove li ha persi quei due secondi, soprattutto Ivana, che ha fatto tante gare, viene da pensare il ristoro preso male. Due secondi non è niente, soprattutto poi, in una, come diceva Silvio, uno che, a parte che ha vinto 13 titoli mondiali di cross, che a me piacerebbe averne vinto uno, ed è campione olimpico di 5-10.000, ma due secondi a quei livelli lì sono. Sì, sì, sì. È iniziato, lui l'ha fatto a Berlino, è iniziato a piovere a un certo punto, si è ritrovato lì. Forse anche un po' incredulo di essere così vicino dal record del mondo. Spendo un secondo di pubblicità, c'è un'intervista ad Haile Gebrselassie fatta da Andrea Schiavon su Corriere di Febbraio. Haile dice: probabilmente Bekele non se n'è accorto. Si è ritrovato magicamente lì. Non aveva capito che era così vicino, che ci sta quando sei lì nel credo, no? Sì, nella, anche perché comunque agonistica. Due secondi l'avrebbe recuperato in un attimo. E comunque no? Sono contento che c'è questa sorta di nostro Ali Foreman alla fine, cioè il confronto tra i due proprio finalmente a Londra. Finalmente tutti lo aspettavano, sì, e finalmente il confronto proprio ci sarà. Bello. Tra l'altro, una nota a margine così: Elio Kipchoge è dell'84 e Bekele è dell'82. A guardarli, hai visto? Ma sono un po' consumati dalla corsa. Ma dici che la corsa ci consoliamo così? Allora. Un pochino, forse. Sì, è vero. E poi sono veramente, oltre che datati dal livello di carta d'identità, sono consumati dal tanto che hanno fatto. Mm. Perché la prima volta che abbiamo visto Kipchoge sul podio eravamo a Parigi nel 2003 con Paris-Bercy, il campionato del mondo, e lui era terzo nei 5.000. Quindi. È un bel po' di tempo. Questa è una considerazione anche per dire che Bekele soprattutto si troverà a Londra a 38 anni. Sì, per cui insomma, le prestazioni sono ancora alte a un'età che non è proprio quella consona. Grande ammirazione. Grazie mille Daniele Menarini. Grazie a voi come sempre. E grazie mille a Gianmarco Ferronato in regia. Noi per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15. Poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.